ricordo Roma, mon amour, dal Mandrione a San Giovanni, poi tutti al Parco degli Aranci, a dormire sopra le foglie, senza una lira ma con tante stelle, senza una lira ma con tante stelle. Buche che sembrano crateri, catacombe di terracotta, abbiate fede, ma con la gonna corta. Più che una città, Roma sembra una mignotta, un impero caduto da cavallo, con gli occhi persi ad una gamba rotta. Stornellano Catullo nell'osteria del Trullo, un barcarolo sfigato se la ride del fiume stregato, nell'anfiteatro Flavio che chiamano il Colosseo, hanno violentato di tutto e lo considerano pure un dio. Roma, mon amour, che t'hanno fatto, non sei più tu, caput mundi della malora, bruciata viva dalla miseria. Roma abbandonata ai ciceroni senza una guida, Roma in mano ai pazzi, la tua memoria fatta a pezzi. Roma, mon amour, che t'hanno fatto, non sei più tu, caput mundi della malora, bruciata viva dalla miseria. Roma abbandonata ai ciceroni senza una guida, Roma in mano ai pazzi, la tua memoria fatta a pezzi. Cambia il governo ma non cambia la musica, le solite note stonate fanno a gara a chi più ruba, sembrano rose ma sono un branco di spine. A sera quando la luna chiede strada, Roma si trasforma in una lupa affamata, felina volge lungo il Tevere sguardo, donzella nuda, Roma è un grande bordello. Preti pedofili scrutano vicoli ciechi, mentre i poeti sono solo degli illusi. Nessuno è mai riuscito a conquistarla, Roma baldracca della camorra e figlia. Circensi giocano a scacchi al Palatino, Roma si muore ed il popolo è cretino. Nessuno vede che la strada intrapresa offende l'anima del mondo ferita. Roma, mon amour, che t'hanno fatto, non sei più tu, caput mundi della malora, bruciata viva dalla miseria. Roma abbandonata ai ciceroni senza una guida, Roma in mano ai pazzi, la tua memoria fatta a pezzi. Roma, mon amour, che t'hanno fatto, non sei più tu, caput mundi della malora, bruciata viva dalla miseria. Roma abbandonata ai ciceroni senza una guida, Roma in mano ai pazzi, la tua memoria fatta a pezzi.